Economia in Europa. In collaborazione con Euronet. Nel vecchio continente è sempre più concreto il timore di un nuovo rallentamento economico. Le banche europee continuano a dare preoccupazione con la crisi internazionale che continua a mettere in allarme tutti gli stati. Questi temi al centro della cronaca economico-finanziaria di questa puntata di Economia in Europa. Le banche continuano ad essere il cuore dei problemi dell'agenda politica europea. Il presidente della BCE, Trichet, è tornato a sottolineare la difficoltà del momento e la necessità di attuare nuove strategie. La Commissione europea ha dato il via libera temporaneo alla nazionalizzazione di Banca Dexia, operazione considerata necessaria per preservare la stabilità del sistema finanziario. Fabio Pavesi, delle Sole 24 Ore, intervistato da Simone Spezia, fa il punto della situazione nelle ultime settimane. La crisi bancaria resta veramente il tema ancora risolto. Andiamo incontro a questo weekend in cui Merkel e Sarkozy avevano premesso questo grande piano salvabanche europee e all'incontro del G20 a Cannes il 3 e 4 novembre, quindi sono settimane davvero importanti e ovviamente i mercati vorrebbero una soluzione rapida e quasi indolore. Il problema è che la soluzione rapida e indolore non c'è, nel senso che non va dimenticato che questa esigenza forte di ricapitalizzare le banche ha avuto un'accelerazione, secondo me, dal caso Dexia. Cioè, con Dexia, che era stata salvata la prima volta nel 2008 con 5 miliardi dello Stato francese e belga, vedere dopo 3 anni la stessa banca ricapitalizzata una volta finire sostanzialmente sull'orlo del fallimento, quindi è stato un salvataggio in extremis, secondo me ha preoccupato molto i governanti europei, perché sta a testimoniare che nonostante gli sforzi, non dimentichiamo che i governi d'Europa, parlo anche del governo britannico, sono intervenuti a salvare banche nel 2008-2009. I dati di Mediobanca parlano di circa 1.000 miliardi iniettati nel sistema, quindi la parte pubblica ha fatto il suo compito. Oggi i governanti chiedono di fatto alle banche di fare il proprio compito, cioè di mettere loro soldi dentro le banche. Il problema è che se tu chiedi alle banche di aumentare il capitale in questa fase, con il mercato così volatile, con il mercato così incerto, vai in parte a strozzare le banche, perché ovviamente se tu aumenti il capitale, queste banche vedono diminuire la redditività e ovviamente pensate alle fondazioni bancarie italiane che hanno i prezzi di carico delle banche a valori lontani dai valori di mercato. Se poi mancano i dividendi, la redditività si abbassa, è ovvio che il sistema fa cortocircuito e quindi avrebbe riflessi sull'economia reale. Per quello una soluzione non è affatto semplice. Il caso Dexia però è paradigmatico, insomma, cioè voglio dire, tu hai salvato una banca, l'hai messa sotto controllo pubblico e poi hai scoperto che nell'arco di 3 anni non è stata capace di smontare quel portafoglio titoli tossici per 95 miliardi di euro su un attivo di 500 miliardi, è come se una banca italiana avesse il 20% di attivo investito in mutui subprime, vecchie eredità della crisi Lehman. Hanno anche titoli governativi belgi, italiani e francesi, però quel portafoglio lì ad agosto è stato svalutato di 4 miliardi in un colpo solo, era la prima pulizia che si faceva. Un investitore cosa pensa? Che se quella è la prima svalutazione è che l'antipasto, vuol dire che 95 miliardi avendo in pancia bond che valgono greci, oggi valgono il 50% del loro valore d'acquisto, quei 95 miliardi probabilmente nei prossimi 2-3 anni diventeranno perdite per 20-30 miliardi per lo Stato francese e belga. E quindi questa cosa qui ha messo molta paura ai governanti, perché è il primo crack dopo la crisi Lehman, questo va segnalato. E c'è anche il caso di Estbank, la banca austriaca con un credit default swap da 5 miliardi di euro fuori bilancio. Sentiamo sempre l'analisi di Fabio Pavesi. Il vero dramma della finanza oggi sono ancora le poste fuori bilancio. Cioè, nonostante la crisi Lehman, nonostante la paura su questa montagna di derivati che valgono 10 volte il valore del sottostante, quindi un'economia assolutamente di carta, che è quella che ha bloccato e fatto nascere la crisi Lehman, non dimentichiamoci, si scopre che la prima banca austriaca ha questo derivato di copertura, cioè si copriva e vendeva questo derivato per coprire altri, non era messo a bilancio come una passività della banca, ma era messo fuori bilancio. Quando i regolatori se ne sono accorti, anche loro 2 anni e mezzo dopo gli hanno detto no, quella roba lì deve rientrare nei conti, e hanno scoperto a questo punto che riportandola in bilancio quel derivato a 5 miliardi e 2 aveva perdite per 180 milioni sul conto economico e per 400 sulla parte patrimoniale. E, insomma, voglio dire, queste cose qui sono avvenute sotto gli occhi dei regolatori e oggi il governatore austriaco pare che abbia detto che il sistema austriaco ha bisogno di altri 4 miliardi di capitalizzazione. Quindi almeno 4 miliardi. Il sottostante di questo credit default swap non si sa quale fosse. No, non si è mai capito, però loro vendevano questo CDS ma non lo mettevano a bilancio. Voglio dire, se il CDS poi perde, tu quella perdita l'hai occultata e quando il mercato l'ha scoperto, ovviamente quel giorno lì c'è una crisi di fiducia, che è la stessa crisi di fiducia che non fa scambiare denaro fra le banche. E il dato grave, oggi parlano tutti di ricapitalizzazione, è la liquidità, cioè siamo nello stesso clima di Lehman, cioè qualsiasi banca si dice, ma chi è la mia controparte? È solida, punto di domanda. Cioè il cosiddetto mercato interbancario, quello nel quale le banche si prestano denaro, l'un l'altro è fermo in questo momento. Non è come sulla crisi Lehman, ma si sta avvicinando e tutti sono molto preoccupati perché in questa fase la BCE sta facendo da surroga alle banche, cioè le banche portano i titoli in BCE, la BCE eroga liquidità e però non c'è più il mercato orizzontale tra banca e banca, c'è un mercato verticale dove la BCE fa una sorta di ultimo bastione, tant'è che Trichet nelle ultime dichiarazioni ha detto attenzione, la BCE non può andare avanti su questa strada per molto tempo, questa purtroppo è un'eredità che prenderà in mano Mario Draghi. Restando in tema di banche, sentiamo anche una breve dichiarazione di Giuseppe Mussari, presidente dell'ABI, l'Associazione delle Banche Italiane, proprio sulle regole e i criteri di bilancio per le banche dettate da Basilea 3. Basilea 3, le regole dovrebbero valere per l'Europa e per gli Stati Uniti d'America sicuramente, come il programma che sia peraltro. Rispetto alle generazioni nuove occorrerebbe avere, oltre che regole per le banche, programmi e progetti di sviluppo seri. All'inizio della settimana è arrivata anche una dichiarazione, per qualcuno un po' apocalittica, di Sarkozy, il presidente francese. 10 giorni per decidere il destino della Francia, ha detto il presidente parlando della crisi economica internazionale e delle conseguenze che può avere sul paese. Sentiamo il commento di Marco Mussanè, intervistato da Sebastiano Barisoni, a proposito della situazione francese. Siamo ormai entrati in campagna elettorale dopo la vittoria di Hollande alle primarie socialiste e quindi il fatto che esista adesso un avversario fisicamente concreto, reale, e Sarkozy che ha costruito la sua immagine negli ultimi mesi e sicuramente si presenterà alle presidenziali dell'anno prossimo come l'alfiere della difesa del risanamento finanziario e economico del paese, è chiaro che deve a questo punto fare in modo che si trovi una soluzione rapida ai tanti problemi che ci sono sul tappeto. L'altro aspetto è che la Francia ha la presidenza del G8 e del G20 e quindi gli compete in qualche modo quello di assumere a livello anche internazionale l'immagine nei confronti dei paesi emergenti e degli Stati Uniti dell'interprete di un percorso europeo che vada nella direzione del risanamento dei conti pubblici. Questo è il doppio fronte interno, elezioni. Hollande è uno sfidante più temibile o no? Hollande, secondo te? Così chiudiamo. Sì, per certi versi è difficile dirlo. Per certi versi sì, nel senso che è un candidato moderato, centrista, e se è vero che le elezioni si vincono al centro è sicuramente il candidato migliore per il Partito Socialista. D'altro lato l'Audry rappresentava una contrapposizione politica più netta e quindi imponendo in qualche modo ai francesi una scelta più chiara. Direi che è difficile dirlo oggi, penso comunque di sì, che tra i due possibili candidati socialisti Hollande sia il più pericoloso per Sarkozy. E parliamo ora sempre di Francia, ma del suo debito. Lo spread francese rispetto al Bund tedesco è molto più basso di quello italiano, ma è arrivato a superare i 100 punti base per la prima volta da quando esiste l'euro. E nel giorno, martedì, in cui Moody's ha messo sotto osservazione il debito transalpino. Qual è il motivo di questa preoccupazione sul debito della Francia? Sentiamo sempre Marco Mussanè. La scelta di Moody's è una scelta ancora precedente alla decisione di mettere sotto osservazione il debito, perché questo avverrà eventualmente tra 3 mesi. In ogni caso sicuramente si è acceso il riflettore di una delle grandi agenzie di rating sul debito francese. Questo è assolutamente comprensibile. La Francia è sicuramente il più fragile dei paesi del cosiddetto club della tripla A, è quello con il debito più alto, è quello con il deficit più alto, quello con la spesa pubblica sul PIL più alta, e è alle spalle solo della Finlandia per quanto riguarda il rapporto tra tasse e PIL. Quindi sicuramente ha un deficit commerciale molto alto, ha un deficit primario abbastanza forte, quindi era abbastanza scontato che prima o poi si accendesse questo riflettore. Tant'è che l'agenzia France Trésor, cioè l'agenzia del Tesoro Pubblico che si occupa appunto delle emissioni, in realtà ha previsto, ha fatto delle previsioni sul 2012 con un tasso al 3,7% sui 10 anni, mentre oggi è poco superiore al 3, quindi in qualche modo ha già scontato il fatto che ci possa essere un declassamento francese. Sì, su questo quanto pesa l'esposizione delle banche francesi non solo verso la Grecia ma in generale? Cioè la vicenda Dexia, ma non solo, anche Sogen in passato, hanno dimostrato che dentro le banche francesi potrebbe esserci ancora parecchia polvere sotto il tappeto, o no? Sì, non c'è dubbio che il tema delle banche francesi resta un tema molto caldo, ed è chiaro che tra gli elementi che hanno indotto Moody's ad avviare questo periodo di messa sotto osservazione del debito francese c'è l'eventualità che nell'operazione di ricapitalizzazione che verrà presumibilmente decisa al vertice di domenica prossima, le banche francesi possano non riuscire da sole a ricapitalizzarsi e quindi richiedere un intervento dello Stato. È chiaro che un intervento dello Stato in una situazione di questo genere, con un deficit all'87% del PIL, è evidente che andrebbe a impattare pesantemente sul processo di risanamento dei conti pubblici francesi. Olli Rehn, commissario europeo agli affari economico-monetari, è tornato martedì a fare una dichiarazione che esprime tutta la preoccupazione del rischio di un nuovo rallentamento economico in Europa dopo il G20 di Parigi. Sentiamolo. I'm just back from a G20 meeting in Paris. There is a concern about the soft patch in the global economy. Sono appena tornato dall'incontro del G20 a Parigi e c'è preoccupazione per il passo lento dell'economia globale e per il rischio di un nuovo rallentamento economico. Soprattutto c'è preoccupazione per il perdurare della crisi finanziaria. Al centro delle discussioni del G20 c'è stata l'area euro, nella quale ci sono elementi interconnessi tra loro che devono essere affrontati. Innanzitutto dobbiamo creare delle protezioni più solide per contenere il contagio. Occorre poi aumentare la capacità di prestito del Fondo Salva Stati e FSF e aumentare la sua potenza di fuoco. Su questo aspetto sono fiducioso che verrà trovato un accordo. Riguardo la Grecia, occorre una soluzione sostenibile. Dopo molto lavoro è stato trovato un accordo con la Troica e questo è un segnale positivo per l'erogazione della prossima tranche di aiuti. È anche chiaro che occorre rivedere il secondo piano Salva Grecia, in particolare per ciò che riguarda il grado di partecipazione dei privati. Occorre costruire un nuovo piano per la Grecia che sia solido per evitare il dramma continuo che stiamo vivendo. We need to build a solid second program for Greece, avoiding the continuous current drama. In conclusione, cambiamo decisamente argomento e parliamo dei siti per le prenotazioni e recensioni alberghiere online, servizi sempre più utilizzati ed apprezzati, ma che nelle ultime settimane hanno anche fatto discutere. Una recente sentenza francese ha infatti imposto il pagamento di una multa molto salata ad Expedia, TripAdvisor ed Hotels.com, accusando questi portali di pratiche commerciali scorrette. Ha fatto subito eco l'italiana Federalberghi, che denuncia una situazione di confusione fra i siti di opinione sugli alberghi, dove vengono raccolte delle recensioni anonime, e i siti commerciali a cui sono collegati. Sentiamo Lorenzo Brufani, portavoce di TripAdvisor Italia. Come TripAdvisor ovviamente il nostro ruolo è stato quello comunque di collaborare con la massima trasparenza con le autorità francesi, e questo ci è stato proprio riconosciuto a livello proprio anche